Non è tempo di indugiare, non è tempo di indugiare. Benvenuti, bentornati a sorpresa, forse perché forse avevate perso le speranze, forse noi avevamo perso le speranze, ma Tycoons & Dragons, RGDR, sono qui oggi in diretta, un po' in ritardo, ma sempre in diretta, con la maledizione di Katta, episodio numero 77. E abbiamo con noi anche il nostro master Enrico Cantabriga, super raffreddato, sempre più sposato, sempre meno celibato. Giulio Bosi, Edoardo Salladini, e questa forse è la notizia più Hello. incredibile che voi potevate Io immaginare, c'ero settimana e scorsa. Marco Bosi. Marco Bosi con noi. Salutiamo Francesco Potevo mettermi la Arcidiacono, maglietta di carta. Stefano Gamberoni, No, è no, vero. in realtà sono solo loro, giusto? Non abbiamo con noi. Gli altri sono qua. Solo. Gli altri sono qua e siamo pronti, episodio 77 della Maledizione di Katta. Sapete sempre che ci potete seguire sui nostri canali social, anche se ultimamente siamo un pochino pigri, ma non temete perché il gioco non mancherà, anche se mancheranno le battute del nostro Arci, ma ormai ci stiamo facendo Non so, secondo me un'abitudine. Arce ormai è più le volte che non c'è che quelle Assolutamente, ma infatti mancheranno le battute di Arci, ma non mancheranno le battute su Arci. Quello non vi Infatti, in preoccupate. realtà per le prossime campagne, cioè, se ci serve qualcuno, dovremo fare un recasting, probabilmente. Allora, attenzione perché potrebbe nascere il recasting effettivamente, e quindi se siete interessati a entrare a far parte del gruppo di Tycoons and Dragons, in prova ovviamente di 6 mesi, Rinnovabile. rinnovabile per altri 6 più 6, eccetera. Credo che anche Marco non abbia ancora finito la sua prova. No, non è vero, la penso ampiamente finita. Dai, va No, bene, dai. finita, finita. La finita, perché Marco alla fine, tra un giochino e l'altro, sono tipo 2 anni che gioca con noi. Tra una pandemia e Era l'altra. questa stessa campagna, non vi preoccupate. Esatto. Comunque, direi che possiamo far partire il bardo Eravamo allo se non si stesso è livello, tra stancato. l'altro. Qualcuno me lo faccia partire? Come devo Ok. fare? Eravamo sempre a questo livello quando abbiamo cominciato, te lo Come dico. faccio a farlo partire? Non lo Sta so. già andando. No, no, sto Ah, parlando della no. partita. Ok, con questa bellissima sigla possiamo dar vita a un riassunto che ci farà Giulio. Ok, va O bene. Salla, che ha visto che a quanto pare in tutte le puntate. Ma non Ma non c'ero c'ero l'ultimo. l'ultimo. Alle Guarda. ultime due abbiamo giocato a Giulio Bosio. E quindi c'eri o no l'ultima? Le ultime due di Giulio Bosio E c'ero. non della maledizione di Katta, però. No, Ah, ovviamente. vabbè, dai, Giulio, dai. No, era in Caso PC. strano. Ah, sì, hai anche un volume di merda, Salla, come che Tra l'altro Salla le ha prese anche Ah, da sì, non ho giocato. fatto A questa volta. Come le ho prese? No, rega, contavi poi. 57. Cosa? Sì, è talmente il tuo bonus, diciamo, di PNG è finito, e quindi l'ultima hai combattuto Beh, anche da no, PNG, tipo. no. No, più che altro che c'era tipo una nube tossica. Ah Ah, no, tu ok. forse dal golem l'hai presa. No, penso che abbia combattuto a un certo punto da PNG. Sì, Non ha contro il golem. attaccato, le ha solo riprese. Ha solo preso due ceffoni. Comunque, Vai, Giulio, illuminati. allora. Lei non sapete neanche usarmi. Non ti abbiamo No, usato per abbiamo fatto il master, perché quindi. o il master attaccava te o uccideva noi. Cioè, ci sarebbe stato anche Arci da attaccare. Allora, l'ultima volta, dopo aver rincontrato Baern, che abbiamo ucciso e resuscitato, bla bla bla, poi abbiamo recuperato Sfortuna che si era reso invisibile. E riconvertito alla nostra causa, non si E ha dimentica. preso il libro. Sì, vabbè, che ti volevo dare il libro di strada, il diario di strada. E poi abbiamo iniziato a girovagare per il castello, più o meno, perché poi abbiamo iniziato a sentire un sacco di gente che veniva verso la nostra direzione. Quindi io, facendo mente locale con il modellino che avevamo visto al tempio, in un tipo una sorta di epifania come quelli di Sherlock Holmes nei film, vi dico di andare, cioè ricostruisco dove va una scala segreta che ci riporterebbe giù al braciere con le pietre. Andiamo giù, quindi torniamo dal braciere con le pietre. Quando siamo lì praticamente prendiamo, ognuno prende quasi, cioè prendiamo quattro pietre per andare in quattro luoghi diversi per sicurezza, per esplorare un po', vediamo che c'è una delle mogli di strada ad aspettarci. Non mi ricordo quale, come si chiama, ma vabbè. Volenta. Vabbè, quella. Per chi non si accontenta. Una delle ultime due rimaste, in attesa che Irina diventi la nuova terza. O era Anastasia? Se non era Anastasia. Era Anastasia. Anastasia. Ho scritto male. Noi proviamo a fare un parlé, però come succede sempre in questa campagna, la cosa non va a buon fine, nonostante ormai la gente dovrebbe aver capito che comunque non è saggio mettersi contro di noi in generale. Quindi noi quindi lei si rifiuta di ascoltarci, fa per essere minacciosa e quindi l'attacchiamo. Lei sta soccombendo male e allora scaglia una spada contro la clessidra e questo attiva i due golem di ferro, credo, che erano le due statue di cavalieri dentro la stanza, che mettono del gas velenoso, due nubi di gas velenoso che ci massacrano, ma i vampiri non sono immuni al veleno e quindi massacrano praticamente anche la vampira. E quindi siamo in quella situazione, io tipo vado giù alla seconda nube di veleno, decidiamo che i golem non sono affrontabili, poi cerchiamo di raggiungere la vampira per ucciderla. Non ho visto sta cosa. Esatto, alla fine la vampira viene uccisa dal... la parte finale è meravigliosa. Dal gufo di sfortuna. Ma perché? Perché aveva un punto ferita. Questa l'ha raccontata bene, cioè lei si è trasformata in pipistrello e si è nascosta tipo sopra dalla clessidra. Quindi no, e lì giustamente Katta pensava di averla messa in modo che non nessuno lì la potesse colpire. E in quel momento c'eravamo tipo io appeso alla clessidra che cercava di scalarla e sì, arrivare alla tipa. Ma non ci si arrivava. E per cui tipo il gufo è andato di sfortuna, è andato su a vederla e se l'è mangiata. E quindi niente, ora strada è monogamo. No, gliene manca un altro. Eh sì, si è mangiato il pipistrello. Come è possibile? Il gufo non morto di sfortuna, gli è stato ordinato perché di attaccare il pipistrello e ha attaccato il pipistrello. Mangiato mi sembra un po' ingrossivo. Ci piace pensare che l'abbia mangiato. Perché? Scusa? Perché non se l'avevi mangiato? Perché il pipistrello è più grosso del gufo. Beh, ma dipende dal gufo. Come il gufo. Vabbè, c'è anche da dire che io con il vampiro ritorna nella sua forma umana, però a noi ci piace pensare vabbè, ma dipende che pipistrello è, ma mica è un pipistrello così, è un pipistrello di quelli avete mai visto? Sì, certo, un vampiro sta su un pipistrello ed è un pipistrellino grande così. Beh, se voleva star sopra che non lo avessero beccare, sì. Non hai visto Hotel Transilvania? Beh, di solito sono sempre dei pipistrelli piccoli. Non hai visto Van Helsing? No, secondo me è un piccolo. Beh, l'avete mai visto un pipistrello com'è? Quelli piccolini? Sì. Che cazzo di pipistrello? No, davvero che sono grandi il te? È un topo con le ali. Sì, cioè le ali lo rendono grande, ma il corpo del pipistrello è grande così davvero, eh? Sì, è un cazzo di bambino. Finisce qui. Ma a quel punto l'hai mangiato? Qualcuno è andato giù, credo. Sì, io poi Varisra mi ha imposto le mani e mi ha riportato su. A quel punto abbiamo cercato di fuggire aprendo una delle porte e Garrosh l'ha sfondata e quindi siamo usciti. In realtà non siamo ancora usciti, siamo sulla soglia con due golem. Ci ha sfondato la porta. E quindi adesso possiamo scappare dai due golem di ferro. Esatto. E l'iniziativa sta a sfortuna. Capo. Ciao. Sta a sfortuna. Quanto ho fatto io? Tu non l'hai ancora tirato, per favore, tira l'iniziativa. Per favore. Ah, ecco, ecco. Questo Cugli. Spiega molte cose. Cugli. Due. Beh, due più. Più 25. Sette totale. Sette. Beh, dai, sei comunque prima di Vardistan. Quanto avevo fatto io? Sei. Vabbè. Faccio lo scatto per andare più lontano possibile con l'azione e tutto il movimento, e possibilmente dico al gufo di seguirmi. Ok. Si è appesantito. Esatto, il gufo è obeso a questo punto. Comunque ci sta assolutamente che se lo sia mangiato. Sì, se non che dopo che gli ha dato il morso è diventato di polvere, quindi no. Se lo mangia e poi dopo cagherà a cenere. Darsi. Dai, cioè, là, un po' di romanticismo in questa cosa. Allora, quindi? Sto facendo i due movimenti. Sto facendo dei triangoli. Scusa, okay. Dei rettangoli. Cosa sta succedendo? Sto spostando sfortuna. E invece sto preso Vardistan, dov'è sfortuna? Niente, Vez, hai ragione tu. Può trasformarsi in un pipistrello minuscolo in D&D quinta edizione. Ragazzi. Ho detto... Ma che cazzo di... È un nerf assurdo, cosa vuol dire minuscolo? Beh, se vuole nascondersi meglio. L'obiettivo è quello. Scusa, alla fine è una delle mogli di Strahd. Si trasforma in un pipistrello, tipo la protagonista. Se ne vuole andare, è meglio che sia un pipistrello piccolo piuttosto che una gigante a tre teste. Sì, minuscolo è tipo un culo. Vabbè, ma il pipistrello è davvero... Io non so, non l'avete mai visto? A me è capitato, sono piccolissimi. Ce n'è di ogni taglia e dimensione, però no, quelli vabbè, che abbiamo in Italia sì, sono piccoli. A parte che esistono pipistrelli che sono più alti di me. No, non è vero. Vabbè, no. Cioè, quello più apertura grande alare sì, rega. Sì, l'apertura alare effettivamente è grande, okay. Però sono grandi tipo così, cioè, non è... Ok. Bello il suo podcast, che tanto non so se verrà mai ascoltato. Così, sono così, che si va così. Molto informativo, Race. Provare fino a 1,05 m. Podcast, dove viene caricato? E tu sei alto? Spotify. E sono alto 1,60 m, quindi... E allora sei più alto comunque di loro, quindi... Esatto. Va bene, Race. Io mi nascondo, rega. Hai detto un'altra cagata? No, non lo so. Dove stai andando? Dove stai andando, rega? Che io ho la mappa sotto per la prima volta e non so dove siamo arrivati. Voi siamo siete arrivati da 83. No, giù dalla scala. Scappando. Dopo che la vampira ha attivato i golem, le porte si sono chiuse magicamente. Garrosh ha sfondato quella che vedete al centro e Sfortuna è appena preso e ha cominciato a correre. Entro il più possibile. 10, oddio, 20, 30. Vest, ti ricordi che pietre avevamo preso? 10, 20, 30. Perché sei andato così là? Onestamente, le ho segnate io. Allora, rossa, gialla, 30. Abbiamo preso quella per andare a Vallachi. Rossa, verde, indigo e verde, gialla. Indigo. Allora, Race, tu eri nascosto in questo angolino dove appunto per pietà ti ho fatto dare dei ceffoni dal golem. Perché non sapevo pietà, cosa non fare per gli altri. Per pietà verso di loro, ok. Sì, chiaro. Esatto. E entro anch'io nella porta. Ok. Allora. Mm. Ok, con un movimento arrivi oltre la porta. All'inizio, qua inizia una scala che va verso l'alto, che sfortuna ha già percorso. E quei robi rosa cosa sono? Sono 10 piedi, li uso per misurare la distanza. Ah, ok. Allora, sì, vabbè, vedi dei 10 piedi per terra, non è una bella... Non è una bella vista. Cioè... Vado fino all'angolo. Okay. No, no, c'è proprio tipo segnaletica orizzontale, no? Ok. La precedente. Santo. Con la bomboletta. Allora, suppongo che tu stia brandendo la tua bellissima spada laser. Sì, però con l'altra mano tiro fuori la bacchetta dei desideri. Ok. No, la bacchetta quella delle stanze segrete. E ancora... Okay. No, in realtà l'avrei usata prima. Però vabbè, no, okay. E col terzo braccio? Finta che non abbia detto una serie. Va bene. Arrivi lì e vedi Sfortuna che sta scappando. Dimmi. Ho modificato la scala, quindi adesso puoi usare il metro. Ah, grazie. Sfortuna. 10. Fantastico. Poi mi insegnerai Sfortuna. Come fare. Wow. Ma io ho idea di perché stai scappando, no? Perché ci sono due golem che vi stanno menando. Oh, nel caso torna dentro controllare. Stiamo andando via dai golem. E due. Ah, ok, perché non li vedevo dalla mappa, pensavo li aveste già uccisi. No, no. Okay. Se esalo un'altra volta io sono morto. Per cui ho considerato che tu abbia usato anche un disingaggio. No, i golem li lasciamo bonus. Tutti. Ah, ho capito. Va bene. Sarà un momento in cui Barovia saranno solo golem, praticamente. Vardistra. Scusami, no, Kat, aspetta, c'è qualcuno di ingaggiato di loro ai golem? No, adesso no, i golem si devono ancora muovere. Ah, ok, allora sì, fatto bene. Vardistrons. Yes. E come mai, cioè, Atanas e Garrosh sono lì ma sono consci? Perché hanno sfondato la porta. Abbiamo sfondato la porta. Ah. Cioè, io avevo provato ad aprirla, Garrosh aveva sfondata di brutto. Citando Fabbro, direi, coraggio, scappiamo. Esatto. E fugo anch'io. Molto bene. Arrivi. Perché sostanzialmente togliendo la spada in realtà la cosa non ha rifunzionato il braciere. Non ha rifunzionato il braciere. No, più che altro i golem non si sono disattivati. Sì, però neanche il braciere mi sembrava, perché noi avevamo provato tipo lanciare una io avevo provato a lanciare tipo una pallina dentro. E quello non aveva funzionato. No. Perché mi sembrava la soluzione migliore, però non aveva funzionato. Però probabilmente quando c'è l'allarme attivato, se c'è qualche trasgressore, avrebbe vita troppo facile fuggire così. Magari non è il momento di filosofeggiare. Ok. E si muovono i golem. Visto che siamo molto democratici, sì. Il numero 2 darà 2 ceffoni a Patk. E l'altro Garrosh. L'altro Garrosh, così. Ah, vi ricordo che ho usato l'unica risoluzione che avevo. Super. Per un personaggio che non c'è più. Che fine ha fatto l'altro? Tecnicamente sta correndo insieme a voi verso... No, è con noi. Da qualche parte. Da qualche parte. Ed è tipo lì che si sta praticamente ingurgitando tutti i suoi slot di cura per evitare di morire per via del gas della sessione precedente. Allora, che cosa fanno? 2 attacchi in corpo a corpo. Vuoi dire che sta facendo una manovra, insomma, capito? Esatto. Sopravvivere. Ah, ok. Boh, qualcuno di voi ha un'idea della classe armatura di Patk, per quanto mi sa che sia di gran lunga sotto a 20. Sì, Sì. Cos'è? Nano. È nano o orso? È nano. Boh. Vabbè, lo becchi, facciamo così. Sì, non avevo molti dubbi. 13 più 20, 33. 30. Ok. Il golem di numero 2 gli fa 30 danni. Merda. Vieni qua. Golem numero 1. Attacca Garrosh. Con uno lo manca. E con l'altro gli fa 18 danni. No, scusami. 12 danni. Ok. Ma Garrosh era in ira, no? Te lo ricordi tu? Appena non è, porta, mi sa... No, mi sa che non è entrato in ira perché... Boh. Non so, non l'ha detto. Boh, può darsi. Athanas. Esco. Disingaggi, immagino. Disingaggio ed esco. No, mi metti pure a metà scala. A metà scala qui. Sì. Questi non servono più. Ok, Garrosh, anche lui, esce con la coda tra le gambe. Sfortuna. Mi guardo indietro, dico... Sta lontano, va, questo. Mi muovo di altri 60 piedi. Ok. Non so, a volte ti tiro un calcio, così... Va bene, hai caricato tipo il tuo equipaggiamento magari qua sopra su Roll20. Cioè Marco è l'unico che fa queste cose, esatto. O se no, se hai la tua scheda da farmi vedere, per farmi vedere che cosa hai addosso, ti puoi cliccare due volte. Sono in fondo. Dove le vedi? Nel quello che sembra un giornaletto, l'icona, la terza icona. Sì. Va in fondo, in fondo, in fondo. Sfortuna. Miss Fortuna, il terzo dal basso. Ci clicchi sopra due volte. Ok. Che bravo che sei, Marco. Guarda che roba. E dovrebbero essere, no, questi sono tutti i modificatori. Dove sta l'equipaggiamento? Tu te lo ricordi? Ma che cosa vuoi vedere? L'equipaggiamento Marco, che addosso. Non ci si sente. Scrolla verso il basso. Ok. Più in basso di così. Qua ci vedo. Ah, è qua. Non leggerglielo, cazzo. No, l'ho trovato, l'ho trovato. Sì, ma vabbè. Capisco che sia un colpo di scena, ma ok. Vabbè, guardiamoci tutti l'equipaggiamento di Marco. Ah, ecco ma dov'era la mia. Ah, ecco dov'era. Che storia. Ma guarda che Marco ha. Non ho niente, non è che. Sì, è vero. Stai proprio viaggiando leggero. Ah, no, aspetta, non ho visto il diario. Ho il diario. Ma infatti la mia speranza è che Katta non mi chieda il mio, sennò finendo. La cosa più divertente è le monete d'oro. Quante monete d'oro hai, Berto? Sì, 250, chissà perché ne ho così tante. Perché io ne ho 10 da sempre, credo. Io ne ho 13 buone e 250 finte. Cioè finte nel senso che non sono dichiarate al fisco. No, che sono quelle di Barovia di merda. Credo la faccia di strada sopra. Sì, credo siano quelle di Barovia quelle, non sono vere. Di rame io ne ho 4.450. Non so, cioè, è possibile. C'è il carretto di rame. È tipo, cioè quando tu ti muovi si sente tipo il rumore del Robin Hood Little John, no? Che, tra l'altro io che scappano tipo quando scappano dalla prigione con tutti i sacchetti di monete di Re Giovanni. Abbiamo 29... usato il tuo argento per le armi, ti ricordi? Che fiamma le monete di argento ne ho poche, ne ho solo 100 di monete d'argento e 3 vere, però 100 fake. Vai, Race. Quindi se tirate comunque... monetine ai golem erano comunque e non potevano muoversi. Comunque noi abbiamo gemme e 1300 monete d'oro, solo che sono, cioè, non le dividiamo perché non ce ne facciamo. Potremmo fare le armi di bronzo a sto punto, che non servono a niente. Però potremmo anche fare tipo, che cazzo servono l'argento con i lupi? Tipo dici, oh, adesso abbiamo il bronzo, è molto più forte l'argento, fidatevi, non volete scoprirlo. Corro anch'io, vado avanti. Ok. Comunque ho anche, se vi interessa, 12 gioielli, un fermaglio lavorato, io giro con un incensiere addosso. No, ma io ho tutto il tesoro in comune qua. 1300 monete d'oro. Ho ancora una caffettiera della torre dove è messo Elina. Presumibilmente so il tesoro in comune presumibilmente sarà Krez. 5 gemme da 500 monete d'oro, una boccetta d'olio. Ah, la sharpness, questo ce l'ho dietro. Sì, la filatura più 3. È vero, che cacchio fa quello? Perché forse dovremmo usarlo prima o poi. Tipo... rende un'arma affilata più 3 attacco e danni e magica. Ah, tipo anche io delle bocce continuo a uccidervi con i miei minion. Ho anche un fermaglio di capelli della Vistana morta, poi abbiamo una pergamena di cura ferite di massa, un revify. Sì, ma potevamo usare quello. Tu hai il mazzo di chiavi del barone di Vallakovic? No, non ce l'ho. Ce l'hai, eh? E io sì. E ho anche il sigillo. Che cazzo apre? Ho una botte di vino, però. Ah, del barone di Vallacchi. Di Vallacchi, sì. Abbiamo anche una pozione dell'invulnerabilità. No, in realtà quelle chiavi probabilmente sono molto utili se sei al Vallacchi, perché apriranno tipo tutte le stanze del potere. Ho anche il suo sigillo del cazzo, se vi serve. Quello per dimenticare una lettera. Le stanze dell'edificio a cui avete dato fuoco. Allora. E comunque io ancora non ricordo di aver dato fuoco a nessuna serratura, però. Hai ragione. Magari tra la cenere è ancora. Rubate la sessione 3, ce l'ho ancora. Ok, bar di strada. Ci rimane qualcosa di diverso oltre a scappare? Ah, magari volete sapere dove siete. Oddio, perché Pat che... Vabbè, perché è un tirannosauro impazzito che sta correndo tipo il film di Peter Jackson, come cazzo era? Jurassic... King Kong, l'isola... Che c'era la tangenziale dei dinosauri. Sì, sì. Okay. Ah, poi abbiamo una cassa con altre 800 monete d'oro. Cosa? Abbiamo una cassa dietro. Beh, sì, l'hobbit è con 800 monete d'oro. Abbiamo un sacchetto di pelle umana con 11 monete d'oro e 36 d'argento. Mentre l'ultimo di Hobbit è ispirato invece al videogioco di King Kong. Come? Abbiamo un sacco di roba che in realtà potrebbe anche essere utile. Il corridoio secondo in cui me siete. Se la buttiamo dietro di noi e rallentiamo i golem. Il corridoio che siete in realtà è un tunnel che è scavato direttamente nella pietra in cui siete. Vabbè, dai, fagli risparmiare le preposizioni. Grazie. Ascolta, ma credo noi abbiamo una fonte di luce a parte Race? Nel senso che immagino che sia buio questo posto. Anch'io ho la spada che fa luce. Anche Atanasio, sì. Beh, vabbè, se possiamo uscire dal turno, cerco di fare gruppo con Atanas e Garrosh. Ok. E chiamo gli altri cercando di ricompattarci. Ma restando lì dalle scale, i golem escono. I golem non escono dalla stanza. Ok, allora possiamo... Ho sentito la parola riposo breve. E se mi affaccio, sono attivi che girano per la stanza o... Giulio, vieni da lì. Maledizione. Li vedi che si girano intorno al braciere. Come a pattugliarlo. Questo è male. Vabbè, niente. Ah, il braciere è andato, andiamo. Ok. Gli altri che fanno? Quindi Vardis, Rangarro, Atanas. Sì, io li chiamo gli altri, però gli dico: ehi, non andate troppo avanti senza di noi. Ah, io ho idea di dove va questo sì. Corridoio. Hai idea di dove va questo corridoio? Ti ricordi, vedendo il modellino, ricordandoti il modellino che porta direttamente, esatto. Ti ricordi che porta direttamente alle catacombe. Ah, okay. Alle catacombe direttamente alla scarica. Beh, tipo magari lo dico agli altri. Ma tanti là ci sono due golem quindi... Ok. E gli altri, mentre i tre dell'Ave Maria lì avanzano per raggiungerli, che cosa fanno? Scusate, la descrizione. Non ti preoccupare, Katta, questa volta fa lo stesso. Questo tunnel è intagliato direttamente nella pietra del pilastro che sorregge l'intero castello. La superficie è lisciata e il soffitto è alto appena 6 piedi. Il pavimento è coperto da un spesso strato di nebbia che limita la visibilità fino giusto a qualche piede. Le catacombe sono la tomba del padrone? Le catacombe sono uno stanzone enorme dove ci sono appunto tanti loculi. Non sai se è in quello stanzone la tomba del padrone. Vabbè, anche perché diciamo che è probabile che sia preso. È intuitivo, sì, potrebbe essere uno delle destinazioni del teletrasporto. Se torniamo su facciamo in tempo per il taglio della torta. È vero, tra quanto c'è il matrimonio? Chi lo sa. Come ci hanno detto quando siamo arrivati? Vi dissero preparatevi, sì. Che poi... E poi venite a prendere parte ai festeggiamenti. Abbiamo detto l'orario della cerimonia. Tipico. Tipico di strano. No, tipico dei matrimoni, quando ci sono a tavola e poi stai lì 2 ore a aspettare. Esatto. Ok. Quindi... I tre dal fondo avanzano verso il centro, i tre dall'altra estremità rimangono lì o tornano indietro? O vanno avanti? Ok. Pensavo di nascondermi con un'illusione, se c'è abbastanza buio. Sì, c'è, la visibilità è molto ridotta qui dentro. Procedo. Ok, vabbè, quando ci ribecchiamo comunque io vi dico che i golem non escono dalla stanza ma sono ancora attivi, almeno per il momento. E questo corridoio conduce alle catacombe. Molto bene. Nel momento in cui Atanas finisce di pronunciare queste parole, il pavimento sotto i suoi piedi si apre. Si apre? Il pavimento sotto i vostri piedi, Atanas, Garrosh e Vardistran, si apre. Al di sotto c'è uno scivolo inclinato. Possiamo fare una prova per evitare di cadere? No, direttamente una volta che si apre si cade dentro così, brutalmente. E quindi stiamo per andare alla Catago! Esatto. Quando abbiamo evitato questa cosa? Perché eravate più leggeri. Anche Pat che l'anchilosauro? Ma non è un anchilosauro. E poi magari... No, lui era troppo pesante. Esatto. No, è che magari ha fatto il passo, era molto lungo. La... E l'ha saltato. Esatto. Voi eravate troppo leggeri. Tipo... E quello... fanculo. La... Una volta che la trappola si apre, chiunque sia sopra la sua casella scivola in questo pendio di marmo e dopodiché la trappola si resetta. Cadete in questo, cioè appunto c'è questo scivolo di marmo nero che conduce nell'oscurità. Posso fare una prova almeno per rallentare la caduta? Descrivimi come la faresti. Quanto è grande sto scivolo? Cioè quanto è largo? Fai conto che sarà largo 6 piedi. 1 metro e mezzo, più 1,5 metri, 2 quadretti, sono 3 piedi. No, che cazzo sto dicendo? 5, 10 piedi. Il mio più grande amico. Ah, ok. Quindi 3 metri. Okay, allora 3 metri. È un mago. No. No, perché se era 6 piedi mi alzavo e cercavo di... Sì, ma non era la parola che volevo. Vabbè, possiamo stringerci tra di noi e fermarci. Forse. Provo con la spada magica. Ok. A rallentare la caduta. Come lo fai? Frizione tra la spada e la roccia, direi. Ok. Cercando di... Ok. Di la spada magica così. Cioè. No, beh, è magica, non dovrebbe rompersi appunto per questo. No, spada... Ovviamente cerco anche di, che ne so, di usare le braccia e le gambe, però se non ho pigli... La spada non si rompe, ma ti rendi conto che le pareti e il pavimento sono estremamente scivolosi e quindi non riesci a causare alcun attrito sufficiente. Neanche con forza 25. Se si scivola, si scivola. Anzi, scivoli più forte. Allora, la caduta nella... Anzi, in realtà, con te comunque hai la spada che fa luce, quindi... Almeno vedete la vostra destinazione. La vostra destinazione è una cella allagata che voi conoscete abbastanza bene. Siamo tornati al punto di partenza. Cella allagata. Finite di nuovo, insomma, nella... Come si chiama? Una prigione allagata. Da dove avevate trovato la spada magica. Okay. Cosa fate? Ma qui siamo però costretti in qualche modo, immagino. Siete dentro una cella che è chiusa. Non ne avevamo aperte. Vabbè, la apriamo. Ok, apritela. 20, anzi 24. Riesce ad aprire facilmente La cella. Giulio, apre. Più o meno sì. Un più 11 in Athletics utilizziamo. Esatto. In realtà io ho un più 9, cioè non è che faccio tanto più cagare. Però avrei tirato sicuramente. La prossima l'apri te. Ok. Gli altri su che cosa fanno? Riposo breve. Ma è incredibile che io rimango sempre con Pac inchiurlato. Va bene. Sfortuna? Avete visto i vostri amici finire in una botola? Idee, li seguiamo, andiamo avanti. Sappiamo dove porta questa botola. La botola però si è chiusa. Vabbè, saltiamo sopra. Chi se ne frega. Abbiamo un anchilosauro, voglio dire. Non lo so, o proseguiamo o andiamo giù. Io non splitterei il party più di tanto. Però se sotto sono morto. Allora, logicamente non splitterei il party. Però in pratica tuffarsi nell'ignoto non è una grande idea. Ah, io vi ho detto che continuando lì andate alle catacombe, questo lo sapete. Continuando di qua. Ma catacombe vuol dire male? Perché voglio dire, sono tutti morti in questo posto, quindi cioè, non è che è tutto un po' una catacomba. Non so, di solito nelle case dei vampiri le catacombe non sono bene, però. Boh, proviamo a scendere. Oppure torniamo indietro. Io ho provato a diventare invisibile con i golem. No. Ma tanto se torniamo indietro per andare nelle catacombe, dobbiamo comunque passare dai golem. No, per andare nelle catacombe dovete andare dritti per il corridoio. Sì, ma se dopo scendiamo e vogliamo andare nelle catacombe, dobbiamo ripassare dei gole. Beh, questo non lo sai, cioè lo sai vedendo la mappa, non lo sai il tuo personaggio. No, infatti, tra l'altro noi in teoria dove dovevamo andare all'inizio? Cioè siamo saliti per andare da Strad? No, adesso dovevamo scegliere dove andare, eravamo indecisi tra la tomba di Strad... Mi sa la tomba di Strad, sì. Se no la cosa più sensata potrebbe essere fare un riposino qui, no? Ci sta. Io voto per riposino. Va bene, facciamo un riposo mentre aspettiamo. Ok. O aspettiamo comunque un'oretta. Va bene, voi cominciate a riposare. Io sto preparando la gift della mia palla di fuoco, ed è bellissimo. Ok, mentre i vostri compagni stanno in panciolle, voi uscite dalla vostra prigione. Di cose interessanti in questa stanza, c'era un cadavere in una delle celle e ci avete trovato un'arma magica, quindi effettivamente era abbastanza interessante. Cosa facciamo, Vardistra? Un riposino, sì. Allora, potremmo fare un riposino nelle celle. In questa stanza non è possibile riposarsi mentre sei immersi nell'acqua gelida. E uno mette il cadavere e sta sopra il cadavere. Beh, direi che torniamo su. Però bisogna vedere se c'è ancora il passaggio di sfortuna. Immagino di no. Ma in realtà una volta creato lui mica la dissolve. Sì, sono delle pile di fango allora e no. Di terra. Allora sfrutterei quello e riprenderei la scala. Ok. L'unico problema è capire se gli altri dove finiscono, quindi dalle catacombe. Ma immagino. Ah, se continuano dritti per quel coso, sì. Sì. Potremmo anche provare a riprenderli, però bisogna vedere la stanza con i golem. la stanza è piccola. Nel senso che tu dici buttando la pallina nel braciere, intendi? O facendo proprio la strada al contrario? No, passando alla fine bisogna solo attraversare la stanza. Ma io non ho capito, ste palline ora noi non le potremmo usare anche da altre parti? Se raggiungiamo il punto... però non sappiamo qual è il punto in cui usarle. Cioè sappiamo il braciere? No. Uno lo sapete. Sì, sappiamo il braciere, la stanza in cima alla torre. Dove siamo andati? E quello a Valacchia. Vabbè. Sì. Ok. Proseguite per uscire dalla prigione allagata. Togliamoci dall'acqua. Se non vediamo arrivare gli altri, prima di uscire dalla prigione decidiamo, perché qui ogni tanto passano i gauli, quindi decidiamo in fretta se andare o verso la stanza del braciere e vedere come funziona, massimo poi tornare indietro subito su per le scale e c'è un altro modo di raggiungere le catacombe, che mischiarci con gli altri. C'è un altro modo per raggiungere le catacombe, che ti ricordi? Non so, faccio cosa faccio? Un investigation? Sì. Prova a caso. 14 più 5, 19. Allora. Oddio. Catacombe. Stavo leggendo una cosa interessante. Siete tutti morti. Eccolo qua. Allora. Ok. Dal modellino ti ricordi che l'area delle catacombe ha 5 accessi o uscite a seconda di dove vai. La prima è quella che avevate davanti voi, sul corridoio che stavate percorrendo prima di cadere nella trappola. Poi a nord aveva un'altra porta, un altro collegamento con una stanza separata. A sud portava ad un'altra stanza ancora, a est conduceva alla zona più estrema del castello, quella che dà sul, praticamente è a strapiombo sul bordo del promontorio, e poi dall'altra parte a ovest ci si arriva da una scala, quella praticamente è la scala da cui parte la salita per la torre più alta. Ok. Area K18. Vabbè, ti dico queste cose. Quale potrebbe essere quella più semplice da raggiungere da qui? Quale potrebbe essere quella più semplice da raggiungere dove siamo? Da dove siete? Vabbè, non quella strapiombo, direi. Quella là è mia. Vabbè, chiaramente hai quella da dove sono i vostri amici, che però significa ripassare dalla stanza del calderone. Ok, palesemente sto chiedendo se c'è un'alternativa. Altrimenti, bisognerebbe riuscire a risalire dalla scala vicino a dove siete voi, che per gli amici si chiama K21, e ricongiungersi alla scala invece che porta alle catacombe, sempre per gli amici, K18. Per fare questo, il tuo tiro di investigation ti suggerisce che è abbastanza complicato, in quanto sono collegate al piano di sopra, dove c'è tutta la gente che sta facendo festa e si suppone tra non troppo si celebrerà il matrimonio, e l'accesso a K18 è attraverso la cappella dove c'è l'altare e tutte le panche per gli ospiti. Se no, risalendo ancora di più, devo vedere questa mappa dall'alto, mi serve. Oh, che cosa complicata. Allora, andiamo a vedere qui nella corte del conte, la corte dei conti. Sì, esatto, anche qua si può fare, mi sa. Ma l'abbiamo visto bene sto modellino allora? Beh, le abilità di deduzione di Giulio l'aiutano. Mi chiamavano Sherlock Holmes. Marco Polo. Non ho gli occhi, però. Però no, ci vede bene. Vi fidate del cieco? Se no, per destare ancora meno sospetti, K18 a K21, accidenti, salendo ancora di più, K21, arriveresti qua, no, salendo ancora di più, però. Bello come indicata, sono incredibili. Sì, fantastico. Ah, ai ai ai. Ai. Esatto. Ah, beh, mi grande. Esatto, arrivi fin qua e poi elementare Watson. Un bel casino. Ok, è un bel casino l'Alistra. Non ho capito. Non ci abbiamo capito un cazzo. Beh, vabbè, sappiamo che dalla sala degli ospiti ci si arriva, però. Ci si arriva la sala degli ospiti, dici quella dove siete andati a cambiarvi? No, hai detto che dal salone dove sono tutti gli ospiti, poi c'è la cappella e da lì si arriva, no? Sì. Beh, potrebbe essere un buon momento, visto il casino che c'è, nessuno darà peso a noi. È un tentativo. Beh, non vedo molte alternative, nel senso, di là ci facciamo massacrare dai golem. Quindi... possiamo provare, ma comunque dobbiamo anche pensare a riposarci, che... Lo so, ma... cioè, non so, i nostri compagni, amici, penso che potrebbero essere a rischio nelle catacombe, non trovi? Sì. No, sicuramente. Ma non so come potremmo raggiungerli esattamente. Le catacombe non credo che siano piccolissime. No, però magari anche solo se si vedono arrivare della gente e che viene da una parte, può diventare una sorta di via di fuga. non abbiamo nessun modo per comunicare con loro. No, appunto, però sappiamo che se non appaiono qua stanno andando lì, quindi lì li troviamo. Ah, beh, sì, a meno che non siano andati, tornati indietro nella stanza dei golem. Sì, però ce ne accorgeremo forse. Domandina, ma le 5.000 monete di rame di Salla non pesano niente? No. È l'approssimazione di D&D. Esatto. L'equipaggiamento non ha peso. 50 torce. Esatto. Ha solo ingombro. Hanno inventato le carte di credito. C'ha la prepagata. La strada pay. Se io provo a comunicare con messaggio non ci arriva perché sono troppo lontani, giusto? Non devi tipo indicare la persona con messaggio. Vediamo qual è la gittata. Allora, 120 piedi. Deve essere 120 piedi però in linea d'aria. Sì. So che è brutto, ma devi anche indicarlo, quindi... E viene bloccato da un piede di pietra. Comunque c'è... Cioè, Poi alza lo sguardo e c'è il golem di pietra. Però vabbè, non deve andare dritto in realtà l'incantesimo. Ma quindi là sopra invece abbiamo capito che non è possibile arrivarci da bypassando la sala degli ospiti, giusto? No, l'alternativa è arrivare fino alla torre, quindi e buttarsi in cima giù. E poi scendere dall'altra scala. No. Va bene, dai, direi di... No, aspetta, per correttezza c'è un altro collegamento, ci potrebbe essere. No, ma non posso usarlo perché devo sapere il tragitto e non sono sicuro dove ce l'ho finito. Io. Ah, ok. Devi indicare, la terza via, quale sarebbe? La terza via... Devo trovare la mappa giusta. Le paludi morte. Terza via è morendo. Sono vedo un po' troppe bare. Sì, da qua. Dalla parte più estrema del castello. Comunque io sì, ho visto le catacombe e non prometto niente di buono, però il mio personaggio non le ha viste, quindi... Raga, bruciamo tutto. Oddio. Ah no, K21 è qua. Secondo no. Te perché sto facendo il riposo breve, Giulio? Picchiamo un incendio, tanto l'anima del castello è per forza di legno. Cosa te lo suggerisce? Che tutti i castelli avevano le cose di legno, perché... Non potevano fare tetti in pietra. Non è fantasy di catta. Una Barovia. Ma non una Barovia. Ok, se vai di qua. Passi per la sala del trono. Dio che sono... cioè, devo dire sì. Sì. Non ne ho trovati altri. Neanche da qua. Vabbè, scusa, prendiamo una trivella e perforiamo. Devi arrivare alla torre da dove siete scappati. Vabbè, se no c'è questa giusto? C'è questa dalla sala lì principale, giusto? Se no, dalla sala principale. Va bene, dai, proviamo lì, dai. Ok. Allora, uscite dalla prigione subacquea. Ok, Vardistran espone la sua volontà. Karosh, cosa ne pensi? Atmas, okay, cosa ne pensi? No, va bene, proviamo. Va bene, proviamo, signore. Sommo illuminato. Va bene, tiratemi un dado da 20. Ah, 14. Sapeste che roba? Quel principe Giovanni mise in atto anche troppo le sue minacce. E 15. I sudditi pagarono caro l'umiliazione, credete? Vediamo, Garrosh. Tasse. Ok, minuto. A forza di tasse, no, spremette il cuore e l'anima del povero popolo di Natica. Chi non poteva pagare le tasse finiva in galera. Sì, ci sono anch'io. Nottingham era proprio nei guai. Uscite dalla prigione e camminate su il percorso che Sfortuna aveva creato per non finire nelle trappole che vi rispedirebbero dentro le celle. C'è serenità. Madonna. Vabbè. Com'è triste subire. Dove hai preso sto freddo? Secondo me è stata tirannia. Anche l'aria condizionata dell'aereo. Ma non hai appena dato tutta la colpa alla Miki? Sì, è anche colpa sua. Ciao Miki, dimmi. E anche il tanto pianto. Che cosa che vuoi? Dopo aver sofferto tanto, forse un po' di gioia tornerà. Ma scusa, invece l'altra tizia francese che ti sei fatta, lei stava male come noi. Ah, la Miki non c'è più. No, non c'è più. E non mi sente perché ho le cuffie. È in diretta invece. Allora, grazie amore. Non mi uccidi in diretta, carino. Dong. Ok, risalite la scala e non trovate nessuno che intralci il vostro cammino. Arrivate al piano superiore, che è questo. Giusto? Sì. Quindi siete. Oh, siamo di nuovo tutti assieme. No, magia. Sono i vostri fantasmi del Natale passato. Adesso ci uniamo, tutte le linee temporali si uniscono. Merda, se facciamo un esercito di noi nei diversi piani, dominiamo. Esatto. A meno che non veniate. Sempre se non vi venga incontro un esercito dei vostri nemici di tutti i diversi piani. I nemici, no, sai, uno alla volta. Si uniscono. Se che cos'è? Un film della Marvel questo. Esatto. E, ok. Perché i nemici si odiano tra loro, quindi ognuno vuole, cioè lo strad dell'universo 1 e lo strad dell'universo 2, cioè non sono alleati, perché uno vuole dominare sull'altro. Visto, considerando il tuo personaggio, non è la linea narrativa che seguirei. Il mio? Non credo che tu ami il tuo personaggio di un'altra linea temporale. Beh, sì. Sono io il più forte, no, sono io il più... Guarda com'è debole questo, ma sei tu, Giulio, uguale. I miei personaggi del multiverso avrebbero una, un modo molto semplice per determinare, cioè uccidere più persone possibile, ma altre persone. Bruciamo tutto. Beh, se quindi alla fine se stesso diventano vampiri. Tra l'altro sì. Genio. Oh, è vero. Genio. Carina questa. L'unico modo. Dai, diventa tu Strad che divento io Strad. Tutti. Trafiggono insieme. E viaggio. Grazie. Potere illimitato. K59. E niente, allora facciamo. Beh, va bene, abbiamo capito. Smetti di dare i nomi delle armi russe. Abbiamo capito. Va bene, dai. Dove cazzo siamo? Saremo dalla siamo sala. Saliti. Arrivate alla. Allora, no, aspetta, alla prima uscita della scala chiocciola. Allora, facciamo il piano principale, che è questo. Allora, facciamo i vaghi. Allora, ti direi che vogliamo disinvolti. Scusami. Allora, mettiamoci molto velocemente i costumi, perché mi sa che avevamo i vestiti per il matrimonio. Sì. Oltre a ciò siete zuppi bagnati fradici. Vabbè, ce li mettiamo sopra. Li avevamo messi da parte. Dove li avevate messi? Sì, non erano negli zaini. Direi. Ricordami, non mi ricordo che cosa avevate fatto. Li avevamo messi. Ma da qualche prima parte. Abbiamo fatto tutto. No, è che avevamo fatto tutta una roba per tenerli all'asciutto. Ah, ma poi non li avevamo recuperati, effettivamente. Dove li avevate? Li avete lasciati lì? Li avevamo lasciati lì per recuperarli una volta che fossimo... Perfetto. No, alla fine non ci siamo cambiati, perché siamo andati giù, ma non siamo mai tornati su. Perché abbiamo trovato il macchiere e ci siamo trasportati. Ok, recuperati i vestiti. Che ci cambiamo molto velocemente mettendoci i vestiti sopra le armature. Ok. E in questa veste molto goffa ci dirigiamo. Sotto le armature. Eh? Arrivate sopra. Al... Sopra la mia non ci sta fisicamente un vestito, è una mezza armatura. Sì, l'avevamo preso apposta. Qualche taglia di più. Vabbè, sì, non dobbiamo far vedere che siamo armati, dai. Beh, allora se c'è una mantella, allora mi tengo il mantello, mantello e basta. Con uno spadone nel culo. Vabbè, esatto, è quello il punto. Che cazzo ti metti? Questo. Vabbè, allora, ha uno è sguardo il mio bastone da passeggio. Allora, ha uno sguardo attento, ha uno sguardo attento, chiaramente siamo imbarazzanti. Ha uno sguardo distratto, siamo dei ciccioni sì. In abito. Il punto è che se c'è una mantella nei vestiti puliti, ok. Ma sì, se tutti noi abbiamo un mantello e ci teniamo quello. Ma se no, se hanno una camicia e i pantaloni attillati medievali, non c'è, c'è modo che possano andare sopra una mezza armatura. Saremo il cappottone, la spada te la metti nel culo. Vabbè, la spada sta dietro, semi nascosta. Vabbè, insomma, più o meno ci camuffiamo. Tiriamo a camuffare, scusa. Vai. Che cos'è? Proprio. No, però se volete lo potete fare. Con lo scudo. Con lo è scudo. Un deception. Vai. Vai. Ci vuole tutto il mio culo. Dai, 15 più 3 di carisma, 18. Boh. Ok, vediamo Garrosh. No, vabbè, vale per tutti, dai. Va bene, aiuti gli altri a vestirsi. Comunque Vezzi, avrei fatto un tiro di acrobatics con la spada in mano. Guarda, tipo, tu sei nella posizione esatta per non far vedere la spada, poi si volta, la passi dietro. No, vabbè, io comunque se non c'è un mantello nei vestiti che ci hanno dato, basta, io comunque non tengo il mantello. 18 in Deception, Giulio, hai il mantello, tutti i mantelli, vai. Vardi stranticuccia un mantello all'uncinetto. Perfetto, vai. Grazie. Con lo come spadolo. Come lì... L'atleta, come si chiama? L'atleta dei tuffi lì. Era dei inglese. Sì. Ok. Tuffatore inglese. Si è messo il mantello, no? No, faceva l'uncinetto. Faceva l'uncinetto tra una gara e l'altra. Oddio, me lo sono perso. Che malattia è? Ma è una cosa che fa lui. Poi vende i suoi... le sue cose che fa l'uncinetto e il ricavato lo dà in beneficenza a un'associazione LGBT. Okay. Siamo marketing, let's. Esatto. Sì, se volesse... LGBT sicuramente sì. Se volesse donare in beneficenza a Tycoons and Dragons... Lui è omosessuale. Potremmo essere anche noi un... Esatto, un gender... Ah, quindi se lo autodona è ancora peggio, va bene. Lo autodona, però. Ma noi dobbiamo farlo questa sottotitolo. E questo manicaretto però a me. Non se lo autodona, ma visto che è una causa che gli sta a cuore, perché lui tra l'altro è omosessuale, fa ste cose. Se anche voi vi identificate come dei petrolieri, donate, esatto, se volete usare un po' di greggio, da subito. In realtà, se avete un po' di barili, o se avete qualche barile di ok, aiutate il nostro povero Katta. Guardate, esatto, cioè, tipo come quelli, quelle pubblicità terrificanti per incutere pietà, che fanno vedere i bambini con le mosche addosso che piangono. No, non fare veramente ridere, sono terribili. E, cioè, sono molto efficaci sicuramente, ma sono mancava terribili. Mancava la battuta razzista in questa volta. No, non è razzista. Non ho mai detto nero. Ho detto i bambini con le mosche. Ho detto i bambini con le mosche. Sei tu che sei razzista e hai subito pensato è un'eccezione al successo letterario il signore delle mosche. Quindi ai poveri naufraghi, e quindi volevo fare un'immagine di Katta, aiutatelo povero, guardatelo, è difficoltà. Ok, più o meno dovrei essere ancora vivo. Tra l'altro ha vinto l'oro nel tuffo sincronizzato. Ecco, vabbè. Quindi se si vuole donare, visto come sei ingrassata la giuria a fare la giuria con tutti i cappellini, tipo fatti a maglia, 10 esatto. Vabbè, lei signor giurato lo vuole, no guardi non mi piace, omofobo, e va bene, basta con queste battute, arrivate al piano principale. Vedete che nello stanzone c'è varia gente, riconoscete qualcuno dei Martinkov, vedete qualche vistano che va in giro in maniera abbastanza concitata e correndo qua e là. Vedete la piccola Arabella che gioca in un angolino con dei pupazzetti di fattezze abbastanza inquietanti e intuite qui, quindi siano stati fatti dal vostro amico giocattolaio, che ormai non vi ricordate neanche più come si chiama, ma ve lo ricorderò io, è il caro vecchio il giocattolaio Blinsky. Non gliel'avevamo fatto del no, perché che male gli avevate fatto? No, siccome gli avevamo pronosticato, ma... Non eravamo tornati. Non è vero, non eravamo fatto. Patka gli ha preso la scimmietta. Gli avevamo anche comprato dei giocattoli, è vero? Infatti... Sì, gli ho comprato la bambolina di Strad. Siamo un bel guaio. Ok, E a una prima vista non vedete in questo stanzone la, della servitù del castello, tipo quelli che vi hanno accompagnato nella stanza per cambiarvi, o altri individui che identifichereste come progenie. Ci sono le varie, la nobiltà di Barovia, la vostra cara signora Lady Vactor. Ah, è arrivata Lady Vactor, prima non l'avevo visto. Mm. Sì, sono arrivate anche loro. E quindi niente, questo è quello che sbirciate dall'ingresso. Potete decidere se cercare di farvi strada in mezzo a questa gente oppure proseguire in su per la scala. Ma noi per forza di cose dobbiamo farci strada se vogliamo arrivare al... giusto? Ho capito bene? La via più corta è quella che passa attraverso questo corridoio che avete visto tra l'altro nel video. Gente, no? Sì. E si tratterebbe di entrare da queste porte. Sì. Dove quando siete arrivati c'era il cartello con sopra scritto vietato entrare. E questa è la strada più corta. Altrimenti si tratta di salire la scala fino in cima, sperare di non incontrare nessuno, trovare l'altra scala e scendere fino in fondo. Giulio? Ci siamo vestiti, andiamo in mezzo. C'è da ballare, balliamo. Non so, io ti seguo, Varre, strano. Rischiosa cosa. Ah, certo, però d'altra parte se dobbiamo ritrovarli dobbiamo rischiare. Esatto. La bambina è in un angolo, hai detto, giusto? Sì, che sta giocando con questi bambolotti. Ah, ovviamente ricordiamoci che non abbiamo le mani. Esatto. È molto lontana. Dove è dall'altra parte della stanza. Beh, tanto vale. Ho fatto 30. Boh, vabbè, proviamo. Dai, proviamo a farci strada con fare dimesso, tipo cercando di non dare troppo nell'occhio. Almeno arriviamo fino alla porta di là. Poi vediamo come la situa. Io aspetta, la stanza grande. Dove stanno? Allora, dov'è? Qua. L'ingresso del ricevimento è questo qua. E poi si apre su questo corridoio. Dove quando, che adesso voi non vedete da dove siete. Quando eravate arrivati lì ci stavano i vistani. Che dicevano la gente più là non si può ancora andare. Già la prima porta? Allora se lo sappiamo andiamo su e cerchiamo di scendere. Io avevo capito che c'era la gente lì in mezzo. Qui e a metà di questo corridoio la gente cercava di non andarci perché appunto in fondo quando siete arrivati la strada era chiusa e quindi nessuno voleva dare troppo nell'occhio. Adesso non sapete com'è la situazione dopo il giretto che avete fatto. Andiamo a vederla. Ok. No? No, vabbè, facciamo. Tanto, che fa? Siamo in abito da festa. Avete un'ora. Attraversate la stanza con fare circospetto senza cercare di dare nell'occhio. Cioè, come volete, o la diamo su, però cioè, non sappiamo gli altri che cazzo stiamo facendo. No. Dai. Come punti ferita come siamo messi fra parenti? Ah, io ne ho 19. Tu ne hai 50, no, tu ne hai 33. Ottimo. E Garrosh ne ha 56. Va bene, Giulio. Direi che è il momento di giocarmi. Scusami, vabbè, in sto punto qua. Tanto un minuto per un altro, facciamo un Aura of Vitality. Che dici? Lo spreco? No, perché basterebbe un riposo in realtà. Per aiutarci. No, non sprechiamolo, dai, giochiamo. E lanciare un incantesimo darebbe un pochino nell'occhio. Vabbè, eravamo in mezzo, no, ma se eravamo nella tromba del scalo ci siamo cambiati. Non so, secondo me... Cioè, adesso vediamo com'è la situazione, perché se ci sono i vistagni che tengono d'occhio la roba, tanto vale andare su e cercare un'altra via. Ok, dai, facciamo così. Ok, passate radenti alle pareti senza dare nell'occhio e no, notate passando le mani, cioè che... le facciamo come se le avessimo, ovviamente notate passando che da una parte della stanza c'è Martinkov che parla con uno dei suoi membri del suo clan e lui non, Martinkov non vi guarda nemmeno e fa in modo proprio come se quasi non vi avesse notato. Però dopo aver parlato con questo tizio vedete che questo qua prende due calici in mano e con un passo un po' incostante e barcollante fa in modo di fare finta di prendere contro per sbaglio contro qualcuno di voi e fare rovesciare un po' del contenuto dei calici. Mm-hmm. Contro chi dei tre? Tirato un di 20. Ma il calice di che materiale è? I calici sono di vetro. Dai, tiralo tu, Giulio. Mi aspettavo un clan. 6. Vardistran. Ah, dobbiamo giocare il suo. Beh, no, miseria, sapevo, 18. Bravo, Vardistran, prende contro di te. Già che sono stato... Va bene, dai. Guarda che va meglio così, perché 18. Io probabilmente rispondevo. Ho sprecato sto 18, cazzo, sapevo che non dovevo tirare. Il tizio fa finta di urtarti, di rovesciare un po' del vino contenuto nel calice e lui si scusa tantissimo, Dio signore mi perdoni, poi fa per raccogliere, insomma per pulire per terra e rassettare il malcapitato contro il quale è inciampato e sottovoce ti dice che capito? E sottovoce ti dice che la servitù è stata chiamata in giro per il castello e lo stanno perlustrando in lungo e largo. Quindi la cerimonia è arrivata ad un. Cioè, è stata, come dire, non è ancora iniziata e non si vede ancora il momento di inizio, è come se tutti stessero cercando qualcosa o qualcuno. In teoria stanno cercando noi, no? Può darsi. Ma stanno cercando chi ha fatto casino, nessuno sa che siamo stati noi alla fine. Ho lasciato testimoni per il momento. Abbiamo il diario, però. Eh? Abbiamo il diario, abbiamo quindi Erico. Quindi dico e la cappella è sorvegliata ancora? Non lo sappiamo, non si sente più alcuna anima viva venire da come prima d'altronde. Non si sentono più rumori provenire da là. I vistani che la guardavano non si vedono più. No, bene. Allora io dico, beh, a questo punto, visto che sono in giro, potremmo fare un diversivo ulteriore. Vado per avvicinarmi a Vina. Ah? No, Giulio. Dove stiamo, no, in Cina? La bambina che gioca. Siamo ancora in fascia protetta. Cosa stai facendo? No. Posso neanche trattenerlo perché devo far finta di non avere le mani. E voglio chiedere un aiuto a una mia amica. Anche lui deve far finta di non averle mani. Infatti. Non la voglio toccare, è una bambina, cioè, è la bambina che ho salvato, tra l'altro, scusate. Mentre Giulio va dalla bambina, gli altri cosa fanno? Vuoi rimediare i tuoi errori e averla salvata. Quindi quelle porte sono aperte o chiuse? Questa davanti a voi è aperta. Oh, beh, intanto ci avviciniamo e sbirciamo. Ok. Che cosa si vede? Lì c'è il corridoio. Mm-hmm. Il corridoio delle vittorie. Ha un nome del genere, com'è che si chiama? Ah no, è il... Sì. È la stanza della fede. Beh, è perfetto per te, Bardistran. È un grande corridoio. Che ai bordi è ancora pieno di polvere, al centro è stato un po' spazzato e sono state un po' rimosse un po' di ragnatele, ma non tutte. E ai bordi ci sono delle statue a dimensione in scala 1 a 1 di cavalieri e da entrambi i lati. I cavalieri sembrano che guardino nella direzione di chi sta entrando la stanza, nella stanza. Ci può stare un dovrei tirare un arcana o un investigation per fare capire... cosa? Per capire se potenzialmente sono dei golem. Tu vuoi capire se sono dei golem? Attivabili. Fai un'arcana. Vabbè, è comunque un tiro di intelligenza, quindi non cambiava niente. È puro, duro e puro. 15. Ok. Le statue sono innocue. Riconosci che il movimento dei loro occhi, che dà l'impressione che dà l'impressione che ti stiano guardando, è una effetto... semplice illusione ottica. Ok, va bene, va bene. E in fondo a sto corridoio della fede, delle vittorie, della fede nelle vittorie, della vittoria della fede? C'è il portone, non vedi da dove sei. Quindi questo corridoio è totalmente vuoto, cioè a parte sti cavalieri. Vedi che all'inizio c'è qualcuno che per non stare in mezzo alla bolgia di tutta la gente parte. E sta chiacchierando. E la porta in fondo aperta o chiusa? Da dove sei? Cioè, no, non è spalancata, ma non sai se è aperta o chiusa. Okay. Ok, allora guardo con fare frenetico, con diciamo sguardo preoccupazione quello che fa Giulio. Ok, arrivi da Arabella. Ciao. Mi avvicino, tipo mi inginocchio. Che roca, bambina. Esatto. Mi tiro un morso in faccia. E gliela strappo. No, perché? vi dico... E da poco. Non può, beh, sarebbe... Sai perché ti ho salvata tanto tempo fa? Per darti fuoco ora! Questo sarebbe molto da Giulio. Questa sarebbe una grande idea, però vabbè, non lo farò. Questo sarebbe dal vecchio Giulio, ma noi abbiamo il nuovo Giulio. No, dico, fai fuoco al palazzo. Questo è il nuovo Giulio. Senti, puoi farmi un favore? Dimmi, signore, che cosa vuoi? Signore, puoi chiamarmi Atanas, ti ho salvato la vita. Oh, dimmi Atanas, che cosa vuoi? Allora, quando io oltrepasserò quella porta, e le indico però con la testa, tu potresti, non so, fare in modo... Prima o dopo aver perso gli occhi? Prima, molto prima. Beh, ciao, supponiamo supponiamo che abbia il cappuccio calato sulla ma posso, posso tenere le palpebre chiuse mentre parlo con lo... Ciao miatola, no! Ah, e poi una vistana, ne avrà viste di cose. Ne ha vistane di cose. Vabbè. E quando oltrepasserò la soglia di quella, quella soglia alle mie spalle, perché io direi che do le spalle a quella persona, mi servirebbe che, diciamo, tutta l'attenzione della gente fosse concentrata da a qualche altra parte. E perché? Perché dobbiamo fare, io e i miei amici, dobbiamo fare una sorpresa. Oh, che bello, mi piacciono le sorprese. Che sorpresa dovete fare? Le sorprese però non si dicono. Però, ecco, dopo, quando l'avremo fatta, sarà ricompensata grandemente. Mio babbo ci prova sempre a farmi mangiare la zuppa di cipolla con questa scusa. No, no, non funziona. Ma che schifo. No, no, caramelle, giocattoli. Ma lo fa... Ti stavo dicendo, mio padre ci prova sempre a offrirmi cose per farmi fare quello che non ho voglia di fare. E ma quindi non ti voglio aiutare colui che ti ha salvato la vita. Potrei, però voglio il pagamento anticipato. Non ho caramelle con me, però. Allora, niente, mi dispiace. Vabbè, dimmi cosa vuoi, cosa posso fare per te qui adesso. Vediamo. Allora, io sono bravo a uccidere le persone, però vedi tu. No, è una brutta, è una cosa cattiva, non si fa. No, infatti non bisognerebbe farlo, però a volte capita. Mi sto annoiando qui, non succede mai niente. E comincio ad avere anche una certa fame. Speravo di mangiarmi la torta dopo che questa cosa, questa festa fosse giunta al termine. Vammi a trovare qualcosa di dolce. Dammi un dolcettino. Io ho ancora la pasta dei sogni, le briciole di pasta dei sogni della strega fatta da ossa bacinate di bambini. Yeah. È più che cannibalismo. Esatto. Vabbè, me l'ha chiesto lei, però Chiaramente colpa sua, Giulio, chiaramente. Ah, io non ho dei dolci dietro, cioè, se no, volentieri. Cioè, l'unica cosa di dolce è quella. È il classico cliché di quando tu vai dal tizio. Quindi dà la droga. Vabbè, ci sta. Sta arrivando la fine della serie e si cominciano a chiudere tutte le trame. Dai, sì, ci sta. No, ma davvero, è il classico cliché di... Non vorrei dire, ma è perfetto, Giulio. Se lei è drogata, dovrebbe fare più o meno quello che vuoi tu. Cos'è che faceva pure la pasta dei sogni esattamente? Sto andando a riprenderla, non mi ricordo più, merda, sono passati 2 anni tipo. Eccole qua. Quindi, tutte le cose che mi sono messo da parte. Eravamo anche a questo, in questo, eravamo allo stesso livello. Che storia. Sì, questo è allora. Vero. Allora, chi le mangia deve fare un tiro salvezza sulla Costituzione. O stare in trance per un tot di ore, durante le quali la creatura è incapacitata e ha velocità di 0. No, in realtà non è quello che vogliamo. Beh, se sta male tutti saranno rivolti per verso quanto me. Chi di voi le ha già assaggiate? Nessuno. No, forse Arci. No, però avevamo visto l'effetto, mi sa. Infatti io non l'ho visto. Ma hai il pagamento adesso? Ok, ma gli puoi dire, però lo mangi solo dopo. Sì. Vabbè, se da subito no, Dio, sta male! Oh mio Dio! Magari no, perché mi sono avvicinato. Ops. Beh, va bene comunque, tanto così non sono neanche in grado di dire che tu avevi la mano. Allora, ok. Ho forse qualcosa di dolce da darti. Oh, però devi mangiarla solo quando io avrò attraversato la porta. Ah, che noia. Però me lo devi dare subito. Certo. Tanto ci metterò 3 secondi a attraversare la porta. Va bene, prendo il sacchetto con la pasta dei sogni e gliela do. Ah, grazie. Sembrano gustose. Ora dimmi che cosa devo fare. A questo punto goditi il dolce. Non okay. Devi aspettare che passi la porta. Sì, questo una volta che sono passato, goditi il dolce. Nel caso e poi se lo prenderà, perché poi lei si blocca, esatto. No? Poi in teoria nel caso chi lo sa. Nel caso il dolce ti sia piaciuto, fai e visto che hai fame, lamentati. Che hai fame, vuoi mangiare? Fai un gran casino. Ah, sono bravo in quello. Magari così i servi ti porteranno qualcos'altro. Va bene. Ci vediamo dopo. A dopo. E mi allontano. Ok. Allora. Vai 4-4 verso il corridoio, lo attraversate circospetti e mentre siete più o meno a metà cominciate a sentire un po' di vociare venire dall'altra stanza e i curiosi che erano in questa vanno a vedere che cosa sono queste voci, questi rumori. Arrivate in fondo con seguiti dagli occhietti vigili delle statue. Di fronte a voi c'è la porta con il cartello con la sopra la scritta vietato l'accesso ai non addetti ai lavori e aggiunge il cartello. Ma infrange... non vediamo nulla quindi della tipa. Scusami. Che tipa? Da bambina? Sì. Nell'altra stanza. Vuoi rimanere lì a guardare? No, ma scusami, l'idea di base è che lei facesse il diversivo e noi a quel punto ci allontanavamo. No? L'ha mangiato facendo... la pasta. Ah, oh, vabbè. Però non tra l'altro in realtà voi non lo sapete, voi avete visto solo me che mi avvicinava la pasta. No, ma non... Vabbè. Speriamo che... Vabbè, mentre camminiamo e dico, ho fatto forse un accordo. Sì. Cioè? Beh, all'inizio pensavo che potesse semplicemente distrarre lamentandosi, ma poi cosa di dolce, io avevo la pasta dei sogni avanzata. Hai drogato una bambina? È esattamente questo che sta dicendo. Me l'ha chiesto lei. Forse all'inizio di questa avventura ti avrei dato del pazzo malato, ma arrivati a questo punto direi che è stata mossa quasi geniale. Andiamo. Beh, guarda, dovrebbe stare bene. Cioè io comunque l'ho salvato la vita, non voglio che soffra. Dici che ti apparteneva in quanto tale. Va bene, pensiamo ai nostri amici, le loro vite sono più importanti. Di solito sì, quando salvi una vita a qualcuno, la sua vita poi ti Così. Va bene, okay. Mi appoggio sbirciatina indietro per vedere se siamo osservati. Non siete osservati. Ottimo. Mi appoggio alla porta e per verificare che sia chiusa, nel caso faccio un po' di forza per aprire. Non ho capito cosa c'è nella postilla sotto. I trasgressori saranno? Ah, il trasgressori verrà amputate le mani, nessun problema. No. Perderanno i loro privilegi da ospiti, quelli di non poter di essere garantita la sicurezza. No? Tanto se abbiamo già distrutto il castello, esatto. No, trouble. Ok, vai, Sceo, entra. Avete visto questo ospite maledetto? Abbiamo provato a fermarlo, ma senza mani non avremmo mai potuto. È vero, lui ce l'ha le mani. Tecnicamente voi. Le aveva nascoste anche lui. È vero, le aveva nascoste anche lui. Vabbè, okay, vedo che siamo entrate. Passati dentro, ok. Entrate nella cappella. Molto bene. Tra l'altro non mi ricordo neanche che ora del giorno è. Comunque non importa, perché c'era una specie di tempesta. Tuoni e fulmini dall'esterno illuminano a tratti questo grande ambiente. E lungo i muri ci sono delle vetrate riccamente decorate e colorate che ad ogni lampo riflettono, anzi filtrano la luce verso l'interno. E qualche, sentite il battito d'ali di qualche pipistrello provenire da vicino il soffitto della cupola che sovrasta questo ambiente, all'incirca una novantina di piedi sopra le vostre teste. C'è un balcone lungo tutto il muro a ovest, quindi dal lato da dove siete entrati, 50 piedi sopra il pavimento, e da qui non lo vedete perché chiaramente siete in basso. Le panchine sono state più o meno spolverate per l'occasione e addobbate. Sono ancora disposte così a cazzo? Non sono ancora disposte così a cazzo, sono state ordinate e più o meno riparate. E, al centro, davanti a voi, c'è l'altare, anche questo decorato con qualche rosa rossa. Ci sono degli arazzi? Finta. Non credo in questa stanza. Che cazzo. I lati dell'altare sono scolpiti con bassorilievi raffiguranti figure angeliche che sono circondate da vigneti e grappoli d'uva. Al centro dell'altare, sopra l'altare, vi sta una statuetta d'argento. Ok. Alla vostra destra vedete la scala. Quindi non vediamo però anima viva. Questa stanza vi appare vuota. Molto bene. Sono i pipistrelli sul soffitto. Potrebbero essere altre. È rimasta una però di moglie di Strad sostanzialmente. Sì. Adesso sì. Per ora. Vabbè. In attesa di Irina diventi la seconda. Cioè, esatto. Tecnicamente la quarta. Va bene, andiamo verso la scala, dai. Ok. Facciamo un perception. Va bene. Per vedere se ci sono possibili trappole o cose. Sì. 2. Vabbè, 1. Wow. Vai, andiamo, va. Allora, 18. Allora, scendendo sotto di voi vedete che la scala chiocciola arriva fino al piano successivo, poi si ferma, arriva in fondo. Sbirciando verso l'alto, dove va? No, va andare giù. Sì, sì, però magari vedevate qualcosa. E no, vedete che prosegue molto in alto. Va bene, va bene. Quindi non vedete la fine. Okay. Ok. Quindi. Andiamo giù. Passate di fianco a queste due statue. Ai. Va bene. E che statue sono queste? Golem. Statue non golem che si attivano o creano allarmi, direi, quindi andiamo pure senza problemi, è inutile indagare. Ah, ok. Sì. Ok, allora. Le statue rappresentano, sono all'interno di alcove, al muro nord e al muro sud, e rappresentano cavalieri in armatura con l'elmo, che impugnano delle spade belle lucenti, nel senso belle lucide, e le loro facce sono oscurate da delle nere ombre. Attraversate il loro oscuro sguardo e nulla vi capita, vi succede. Appena date la schiena. Vabbè, insomma, andiamo pure, dai, giù, se riusciamo. Sì. Scendete per la scala. È la morte. E fino a il piano sottostante. Allora, dove sta questa cosa? Un attimo. Allora, mappa 3. Arrivo che qua mi devo orientare. Ecco qua. Ok. Vi ho mentito. Dopo 10 piedi vedete davanti a voi un muro. Cosa vuol dire c'hai mentito? C'hai mentito in che senso? Perfetto. Che prima di arrivare tra voi, che non va giù, a un certo, dopo 10 piedi di discesa, arrivate contro questo muro che sembra eretto molto più di recente rispetto al resto della struttura. Ok, cosa possiamo fare? Tirarlo giù? E con il muro è troppo spesso per essere abbattuto, ma è possibile provare a fare una breccia abbastanza larga per potersi strisciare attraverso. Ok, proviamo. La facciamo se possibile. Ok, metteteci olio di gomito. Quindi tiriamo degli athletics? Sì. 19 per fare sta caccata. 27. E la madonna. Ok, quindi hanno voluto chiuderlo. Ok. Notate che in questo muro, anche se è stato fatto per impedire il passaggio, c'erano comunque dei piccolissimi pertugi. E non erano grandi abbastanza per far passare nulla di, insomma, nessun tipo di creatura, per quanto piccola, ma attraverso di questi ci poteva passare qualche tipo di, cioè ci passa l'aria o un altro tipo di gas. Per ora l'abbiamo slargato. Adesso l'avete slargato. Un altro tipo di gas, occhiolino, occhiolino. Esatto. I vampiri si possono trasformare. E, mettendoci almeno un quarto d'ora di duro lavoro, tiratemi un D20. Un altro? Sì. 7. Ah, puro, non è una prova. Sì, non è una prova. 1. Prenditi. Ok. Ok. Riuscite a proseguire. Arrivate fino al piano sottostante. Dopo una discesa di 40 piedi di altezza. Arrivati in fondo, notate che questa, chissà se si vede da qua, cambio la mappa. Ok. Arrivate qua. Vedete che l'interno della scala, intorno al quale si sviluppa la chiocciola, la rampa di scale, è cavo. E praticamente forma questa specie di cilindro, di tunnel verticale che sale fino a chissà quando. Sale? Fino a chissà quando. E si perde tra le ragnatele e l'oscurità. Ok. Tutto questo è passato un'oretta. È passata mezz'ora. Ma porca puttana, niente. Vabbè, a questo punto. Vabbè, conta che è passata tipo 2 settimane da quando siete andati a Barovia. Esatto. Capito, ma solo per viaggio il muro ci avrà messo tipo 20 minuti. Un quarto d'ora. Più di tutte le altre. Arrivata la catacomba. Ci muoviamo per raggiungere altri più velocemente possibile. Ti ricordi che loro sono la porta che dava sul loro corridoio stava a nord, quindi verso nord, a sinistra rispetto a quando scendete. Sì. Beh, cosa c'è da dire delle catacombe? Cosa vediamo noi? Allora, sepolte in profondità sotto al castello di Ravenloft giacciono le antiche catacombe. Le loro antiche arcate sono supportate da spesse colonne che fungono anche da cripte. Quindi ogni loculo che vedete fa anche da colonna. Ovviamente spesse ragnatele pendono e rimangono penzoloni nell'aria ammuffita. Ovviamente anche qui una spessa nebbia occlude il pavimento, la vista del pavimento, il quale è ricoperto di liquame maleodorante. Il soffitto nero si muove. E questa frase non mi è molto chiara. Le catacombe sono la casa di decine di migliaia di pipistrelli. Ok. I pipistrelli stanno qua durante il giorno e poi volano fuori attraversando il tunnel che avete visto. Ok. Quando arriviamo lì, beh, guardi, non so, forse è meglio accendere una torcia che usare la spada di luce, la spada luminosa. E però, cavolo, dovrebbero apparire da qualche parte, no? Credi? Cioè, noi ci siamo mossi da un bel po', magari mettiamoci qui ad aspettarli a sto punto, o no? Io cercherei di raggiungerli nel corridoio, anche perché io so più o meno dove dirigerci. Ho solo cato nel catacombo. Quello che voglio dire un'idea. È che sono passata comunque un po' di tempo e boh, non sono ancora da nessuna parte. Beh, è vero, ma se sono stati fuori sapendo di essere verso le... Oddio. Sono passati senza farsi notare o sono rimasti a attendere. E comunque la strada è questa, quindi tanto vale andare verso di loro. Credo che loro abbiano iniziato a esplorare le catacombe a caso. Alla fine sono in tre. Ok, va bene. Allora, vi dirigete. Cioè, Race potrebbe farlo, per assurdo. Però gli altri... perché è un abile l'altro. Quindi, dov'è secondo te il tunnel? Da dove vengono loro? Dove dovremmo andare? A sinistra. Ok, quindi possiamo provare a costeggiare le pareti? Sì. Sì. Forse potremmo cercare di farlo senza dare troppo nell'occhio, non credi? Se ci teniamo... sicuramente, ma una luce ci serve. Quindi torcia è quella che fa... Garro c'ha scuro visione, no? Ma gli serve una minima luce nel totale comunque. Non vede nel buio totale? No. Tecnicamente sì. Dovrebbe vedere i primi, credo, 30 piedi. Ok, se Garrosh va davanti e ci guida e siamo attaccati alla parete, forse okay. Non abbiamo bisogno per il momento. Va bene, proseguite verso nord allora. No, aspetta, tu cosa dici, Atanas? Perché... va bene, secondo... Cioè, in questo modo noi evitiamo... Perché secondo me se accendiamo tipo una luce così con tutti questi pipistrelli rischiamo di fare... È vero, quello però infatti... non vedono la luce, però... Boh, non lo so. È vero che loro in teoria non la vedono la luce, dovrebbero dare di suoni, però... Magari c'è di peggio dei pipistrelli, ecco. Non lo so, vogliamo far la luce? C'ha la luce, dai. No, è che... No, per me va bene. Non sono sicuro che vedo. Non lo ascoltare. Non ho capito cosa hai detto. Comunque, penso che i pipistrelli vedano la luce. Perché hanno gli occhi e quindi... Non so, tipo... Magari che... non ci vedono una sega, però... Grazie Salla, cioè, per questa puntualizzazione. No, ma mi va bene. Io ho la spada. Non c'è il garro. Ok. Va bene. Allora ci facciamo guidare da lui. Teniamo pronta la torcia eventualmente in caso di pericolo. Allora. Passate vicino. Ah, quindi... Rosire, pipistrelli. Passate vicino quindi a le cripte che vi separano dal corridoio a nord. Vedete che ogni cripta è chiusa da questa grossa lapide di pietra scolpita che funge praticamente da porta. E questa lastra di pietra è alta 5 piedi e su di essa vi è scolpito un epitaffio. No, aspetta, questo dove? Perdonami, Katta, non ho capito. Davanti a loro? Vedi che tu ogni cripta Ha davanti a sé una lastra di pietra che funge da porta. Ah, ok. Vabbè, non so se sciolo. Beh, questo passandoci vicino lo vede. Okay. Beh, è l'unico di noi che lo può vedere. Ma non sa leggere. Sì, che sa leggere. Ci sta, in effetti. Mentre passate, se volete, potete leggere l'iscrizione che c'è davanti alle cripte. Allora, leggicela, però come la leggerebbe Sceo. Ok. Vabbè, dai. Scherzo. Allora, però sarebbe carino leggere questo numero. Qua, cazzo, è. Mannaggia la risoluzione. Gli strani non sono ciechi. Ci vedono 18. Abbastanza bene anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sì. Beh, gli occhi ci funzionano meglio dei nostri in ambienti scarsamente illuminati. Non dicono, ehi, quello è un nano, un paladino. Nessuna delle 1100 specie di pipistrelli è completamente cieca. Cosa vedi? No, infatti io volevo evitare di usare la luce perché la luce poteva disturbarlo. Ma la maggior parte si affida a un sistema mentre riposa. Detto ecolocalizzazione. Ah, che culo. Allora. Qua. Ah, 1100. La prima cripta che incontrate. Ma perché state entrando nella cripta? No, ma infatti non stiamo entrando neanche. Si sono solo passati di fianco. Dico solo quello che vedo. E questo è sufficiente per attivare la descrizione. Dico solo quello che c'è scritto sulla lapide. Ci abbiamo provato tutti i modi, Sal, hai notato? Senza torcia, Sceo davanti. Cioè, già le abbiamo provate tutte. Sceo si meglio, mette il paraocchio. Meglio di così. Non meglio di più di così non potevamo fare. Cosa c'è scritto? Gattona. Dai, cazzo. Leggicela però davvero come ce la leggerebbe Sceo. Allora, intanto vedete che a differenza delle altre cripte, la porta, la lapide d'ingresso è stata in maniera molto accurata appoggiata da un lato. Attraverso le nebbie vorticose della brina perpetua di questo posto, notate che sono state da poco scolpite le lettere che Garrosh legge come Irina Oliana moglie. La cripta è vuota ed è stata pulita in modo. Ah, vedi, questa è la nuova casa di Irina, dico Varsa. Ed è stata tirata lucido. Direi. Dai, poteva andare peggio. Strad. Tan tan tan. Che sarebbe? Grande professione. Non ho capito cos'è. Se Irina fosse Strad, cioè Irina fosse. Se fosse Irina, il vero vampiro che avevo. Sarebbe un gran protestone, però non è da Wizard of the Coast, purtroppo. No, è vero, però. Va bene, proseguite. Assolutamente. Sì, noi andiamo verso. A meno che verso non vada lì dalla tomba tua riga. No, Irina, no! Vabbè, mica ancora detto niente. E passate di fronte a un'altra cripta. Siamo però attaccati alla parete. Ok. Basta dal retro delle cripte. Ok, quindi. Però quella lì a sinistra becchiamo per. Ok, quindi questa davanti a voi la ignorate? Sì. Passate di qua. Sì, non ci passiamo davanti. Ok. Cioè, a meno che Sceo non si perda. Beh, è l'unico che ci vede. Però. Sai mai, è un barbaro. È vero anche quello. Passate di fronte a questa che sta sulla parete. Madonna. Cat ormai è morto. Si sta trasformando in Strad. O in Irina. In Irina? No, cazzo. King? Retro Ischi. Il re dalle tre facce. Okay. Proseguite. Che è un'altra cosa. Sì. Porca puttana. Torna qua. Non dovevate proseguire. Merda. Se davanti alla porta per arrivare da noi beccate una botola che vi riporta di sotto, io chiudo, ve lo dico. Beh, sappiamo già cosa fare. Io chiudo tutto. È tipo Super Mario. Esatto, sì. Ma neanche, è più cancroso, è tipo, che cazzo ne so, Ori, che se cadi torni di sotto. Mamma mia! Passate di fronte ad una cripta la cui porta è stata infranta. Bene. Ok, questo è male. Dall'interno o dall'esterno? Vabbè, questo non lo so io. La pietra, la porta di pietra giace sul pavimento e l'iscrizione è oscurata dalla nebbia. Ed è quindi dall'esterno, direi, quindi è riversa verso dentro. Ok, meno preoccupante. Ok. Le iscrizioni sulla porta leggono: Endorovic il Terribile. Ciò che il sangue di centinaia di guerre non riuscì a compiere, venne compiuto da questo è Garrosh che fa fatica, dal disprezzo di una donna. Dorovic il Terribile sembrava più simpatico. All'interno vedete, Garrosh vede che giacciono un teschio, alcune ossa, alcuni pezzi di armatura arrugginita e al di sopra dei lati di questo loculo ci sono accovacciati due gargoyle di pietra. Io metto, vabbè, no, in realtà ho già una mano sulla spalla, però mi avvicino e dico a bassa voce: non disturbiamo i morti, che sono già fortunati. Proseguite e alla vostra sinistra trovate quella che tu ti ricordi essere la porta del corridoio dall'altra parte. È uno dei miei tratti, per me i morti sono fortunati. È vero, infatti hai sempre rispettato questa cosa. Abbiamo dispensato fortuna un po'. No, esatto. Esatto. E vabbè, arrivati alla porta, quando Garrosh siamo arrivati a esserci la porta. Okay, che dava sul corridoio. Che cosa fate? Perception. Proviamo a sentire di là, sentiamo qualche rumore. 8. Silenzio di tomba. 3. Va bene, tre, senti un jazz, una jazz. Ok. E quelli dall'altra parte, si apre la porta alla, al fine del corridoio. Cosa fate? Io sto dormendo. Sfortuna. Alzo la testa. Io sono nascosto dalla mia illusione e sto riposando. Ok. Si apre la porta, fate qualcosa. Ma loro sono illuminati o sono al buio? Ditemelo voi. Illuminati. Lui ha la spada, io sono coperto da un'illusione, quindi... Allora noi vediamo una luce e siamo... dovrebbe riconoscere. Cioè, in teoria voi vedete anche me, perché immagino che il corridoio non sia così grande. Apriamo e chiudiamo la porta alle nostre spalle. Ok. Io estraggo la spada per fare più luce. Bene, vi ricongiungete e quando chiudi la porta andiamo. Noi dobbiamo iniziarlo adesso. È passata mezz'ora, siete a metà. Ma come mezz'ora? Hanno fatto tutto silenziosamente, piano allora, piano. A questo punto anche io voglio fare un discorso, tutto il giro della cosa, un quarto d'ora di sfondamento di porta, un quarto d'ora di sfondamento di coglioni e noi siamo lì e non siamo neanche riposati. Vabbè, almeno tre quarti d'ora saranno passati. Vabbè, è all'atto pratico. Ma tanto noi dobbiamo comunque farlo il riposo, quindi. Facciamoci il riposo breve, dai. O voi andate avanti da soli nella prossima puntata. Chiudendo la porta. Possiamo rifare tutto assieme la cosa. Chiudendo la porta. Leggi l'iscrizione che vi sta sopra. Che dice? Siete fottuti. Qui giace colui. Qui giace colui che cammina lungo il sentiero del dolore e del tormento. Ezechiele. Ezechiele 25 di Dio. L'uomo ha timorato di Dio. Ci siamo ingranditi. E anche questa sessione sono riuscito a non fare nulla. Top. Già, mi sei riposato un po'. Però mi sono riposato due volte. Se adesso noi facciamo un quarto d'ora e un'ora, io ho due riposi brevi. Che non conta un cazzo, ma va bene lo stesso. Tra l'altro io non ho neanche perso troppa vita. Una volta che ci ricongiungiamo, siamo riusciti a ritrovarvi. Molto bene. Eravamo dove eravate esattamente dove ci avevate lasciato. Avevo provato sì. A contattarvi con i messaggi, ma non c'è ricezione. In pratica quella trappola esattamente nel posto dove avete fatto bene, perché quella trappola ci ha fatto scivolare verso le celle. E quindi abbiamo dovuto fare tutta la strada di nuovo, però al posto di passare dalla parte del braciere, per sicurezza siamo tornati su nel salone degli ospiti. A quanto pare Gary ci stanno cercando, cioè non stanno cercando noi, ma stanno cercando gente esterna, che in teoria siamo noi, però non sanno, credo. Sì, avete fatto la scelta storia giusta. Della vita. E niente, e qui sì, ci sono le catacombe. E mi sa che c'è la tomba di strada. C'è anche la tomba di Irina. Top, è morta. È morta Irina? No, è la catacomba in preparazione, immagino, del posto matrimonio. E qua finì la sessione di casta. Beh, direi che visto che siete rimasti qui finora, può essere un buon momento per riprendere un po' di forze, poi risaliremo su per l'attacco finale. È evidentemente un luogo sicuro. Beh, stati mezz'ora lì senza che sia successo niente. Se entra qualcuno dopo un quarto d'ora catta, però io voglio riposo breve. Lo dico. Non lo decido io. E chi lo decide? I dadi. Vaffanculo. Un quarto d'ora, catta. Va bene. Chiudiamo qui? Direi di sì. Anche se no chiudo io. Anche perché Katta stoicamente ci ha portato fino qui con grande sofferenza. Ha anche voluto fare tutte le descrizioni. Esatto, anche se noi abbiamo fatto di tutto per darti la possibilità di... Nelle sue condizioni. Non vedo perché devo soffrire da solo. Giusto. E come era il marito che si taglia le palle per far rispetto alla moglie? Era. Esatto. Dio, terribile. Devo dire che questo è ammirevole. Va bene, a proposito di ammirevole, avete ammirato l'episodio 77 della maledizione di Katta. E vi ricordiamo che ci potete continuare a seguire su questi canali social, Tycoon Sandre con Serio GDR. Non ho capito se la prossima settimana ci saremo meno, forse non abbiamo capito. Ah no, meno devi noi. Dire il 17 cosa vogliamo fare. Ma il 17 c'è anche Ale. Quindi... Agosto. Esatto, quindi vogliamo trovarci da qualche parte, facciamo un aperitivo insieme. Ma sì, farei più una cosa più normale, però sì. Decidi tu. No, per sapere anche i vostri impegni. Perché oggi è il 9, cazzo, il 17, vabbè, lo stesso, sì. Ci sono comunque. Tu ci sei. Il 17 è martedì prossimo, giusto? Sì. Devo ricordarmi, va bene. E 17 martedì e lunedì è il 16. Sì. E vabbè, non so chi c'è. Cioè, Sala non c'è. Sala c'è. Io sono dovrebbe, in vacanza. Dovrebbe tornare Sceo. Sala non c'è, dovrebbe, Sceo forse c'è. Dovreste esserci. Voi due, Sceo, Jimmy. Forse, tu, ma provate a sentirlo. Ci sei, il 16 non ci sei, tu scatta. Il 16, che cazzo succede il 16? Lunedì. Vabbè. Lunedì, eh. Sì, è vero, c'ho la degustazione per il menù. Va bene, quindi probabilmente la prossima settimana vediamo. Però, quante schede aperte. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, intanto salutiamo i nostri spettatori, che non so se ci sono stati, probabilmente no, ma li ringraziamo in ogni caso. E intanto ringraziamo perché c'è stato un drop di ascolti nel podcast, grazie per non ascoltare il podcast. Ma il podcast è fermo, quindi... Vabbè, però è stato un drop incredibile. Perché il podcast è fermo? Il podcast è fermo perché non mi vengono dati articoli nuovi, quindi... Che siamo in ferie. Negriero. Poteva essere una buona occasione per recuperare di qualche episodio. Comunque... E invece hai perso 40 sottoscrizioni. 40 sottoscrizioni. Cioè, avevamo 40 sottoscrizioni. Ne avevate 200. Davvero. Guarda come il pezzo ci obbliga a fare ste cose e poi non le condivide. Ovviamente non le stavo monitorando, però è evidente che la colpa è vostra. Bello scaricare. Va bene, va bene, va bene. Torneremo più forti che prima. Che mai. E già mai. Va bene, prossimi episodi, non si sa. Intanto avete visto questo. Il prossimo episodio sarà Umbra Imperi, quando vedremo, comunque va bene, tanto siamo un po' così, navighiamo a vista nelle onde di questa estate. Relax, pollegio relax. Non vi preoccupate, se ci volete seguire fatelo, perché noi continueremo comunque a giocare di ruolo in questi mesi anche estivi, e anche se magari non con la solita cadenza. E quindi alle prossime con Tycoons & Dragons e GDR. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.